Siamo in missione per conto di Dio. "24 mattino" di Luca Telese. Io no che non mi schiodo, non mi schiodo, io no che non mi schiodo. Vabbè, insomma, avete capito. Veronica di fame non muore. Bisogna dire a Veronica che ho una gruppa a casa mia tutta le sere. Scusate, disturbo se scorreggio. Curiamolo, leviamogli il metadone con il ruggito del ninja. Io qualche volta mi vendico e dico ai nostri ascoltatori che tu sei in realtà in costume da bagno. Ma come facciamo a resistere e continuare a lavorare? Le dico la verità, lei mi piace di più anche rispetto a Milan. Oh, cioè, che tempi. È il signore che in qualche modo ti sta chiamando. Chi sono io per poter giudicare? Mamma mia, appena vado via metto un calendario con le dita. Prima o poi lo faremo da casa mia. Io c'ho un bel citofono qui a casa mia. Ah, col video citofono di Toscani. Dov'è? Cos'è? Cosa fa? Pagare 4 al mese vuol dire circa 5 euro al secondo. Poi qualcuno dice che con la cultura non si mangia. 450 milioni, però li vale tutti quell'uomo. Ma vedete che lo Stato vi ha corrotto l'anima. Lorenzo Rotella è sempre pronto ad aggiornarci sulle ultime agenzie e Rachele vigila sui vostri umori. E la salute è un lusso, è un paradosso. La prima regola del Fight Club è che non si parla del Fight Club. L'eufemismo serve sempre a nascondere la verità. Reach out and touch me. Popolo dei Giosvegli, buongiorno, benvenuti. Rompono sulla scena notizie di terremoti, maremoti, successioni. E io vi suggerisco questa connessione: Mugabe ta vecchio, i grandi dinosauri che non vogliono andare via e che adesso vacillano. È ovviamente una provocazione, però c'è un'ostinazione, una tenacia nel presidente che non vuole mollare la scena, malgrado la realtà. E poi ovviamente accade di tutto, il campionato ruggisce, la sinistra trema, non è una novità, e a Ostia vincono i 5 Stelle. E iniziamo con il nostro ospite Dino Giarrusso delle Iene. Buongiorno Dino. Buongiorno Luca, solo tu potevi farmi svegliare a quest'ora. Vedi, l'uomo che ha fatto tremare il cinema italiano e che continua ostinatamente a portare a termine la sua inchiesta sul cosiddetto Weinstein italiano, Fausto Brizzi. Hai prodotto altre 5 testimonianze, Dino. Ne ho prodotte altre 5, abbiamo deciso di comune accordo che non ci occuperemo più di Brizzi, non dell'argomento, ma di Brizzi, perché... E pensiamo che sia giusto davvero adesso passare nelle aule di tribunali. Se lui pensa che abbiamo detto qualcosa di falso, non vedo perché non ci quereri, non vediamo l'ora di dimostrare che è tutto vero. E poi comunque, anche se così non sarà, le ragazze abbiamo trovato, grazie alla sponda dell'avvocato Buongiorno, abbiamo scoperto che possono denunciare Brizzi, in alcuni casi in sede civile, in altri in sede penale, insomma, malgrado la prescrizione. Non è un, perché questo non è proprio che si prescriva il reato. Allora, per denunciare in sede penale la violenza sessuale bisogna querelare entro 6 mesi, ma innanzitutto si può chiedere un risarcimento civile anche oltre i 6 mesi, primo. Secondo, ci sono altri reati, e non solo la violenza sessuale, dalle testimonianze che abbiamo fatto ascoltare all'avvocato Buongiorno, e quindi per quei reati non esiste questo termine dei 6 mesi, per esempio la violenza privata. E in questo caso è perseguibile anche, ho già parlato in realtà con alcune di queste ragazze che sto aiutando, perché sappiate che far testimoniare contro un potente da parte di giovani ventenni, ventunenni, ventiduenni che non hanno, come dire, niente alle spalle, non è stato neanche facile, è stata un'inchiesta molto complessa e molto faticosa, e le aiuteremo a mettersi in contatto con queste associazioni che difendono gratuitamente. Come è partita l'inchiesta? Qual è stato il passo zero? Te lo dico molto serenamente, guarda, allora, qualche mese fa, a maggio, fine stagione scorsa, io avevo avuto una prima segnalazione proprio su Brizzi, dico la verità. Era molto labile, perché in realtà non era la ragazza direttamente, è un'amica di una di queste ragazze. ci stavo lavorando, ho capito che lei era molto terrorizzata ed è stata una cosa che ho tenuto un po' nel cassetto, come tante che ci arrivano. Quando è scoppiato il caso Weinstein e io ho proposto a parenti di occuparmene, e ho scoperto anche altre cose, perché poi su Brisi abbiamo trovato tantissime testimonianze, ma come abbiamo detto ce ne sono diciamo più della metà che riguardano altri, solo che su altri ce ne ho una, due, una, tre. Su di lui ne ho avute diciamo 15 che hanno parlato, tante mail eccetera, ne ho avute tantissime convergenti, diciamo, per cui bene, abbiamo a un certo punto fatto il nome. Per cui è scoppiato così, a partire da quella singola, aiutate secondo me dall'esempio di Asia Argento, molte ragazze anche in Italia hanno avuto il coraggio di raccontare. Poi uno se deve andare a cercare le notizie, ci sono tanti che le commentano e basta, e tu le poi cerchi. C'è qualcuno che le trova. Allora Dino Giarrusso delle Iene ci accompagna nella giungla delle notizie quotidiane, via! Ah, splendidi accordi, Run to the Jungle. Entriamo nella stanza di Tavecchio che non dorme. Piange. No. No. Non dorme. No, sono 4 giorni che non dorme. Ah. Si dorme e si sveglia. Alla fine della partita non ha pensato, cacchio, adesso mi devo dimettere. Ho fatto una riflessione ponderata. Mi presenterò con un programma. Ok. E io accetterò tranquillamente le decisioni di chi è deputato a giudicare. Allora, caro Dino, siete tremende voi Iene, oggi racconta Repubblica che queste lacrime hanno convinto alcuni estremi sostenitori di Tavecchio a cambiare fronte e a farlo cadere. Guarda, qualche mese fa, quando ci fu il caso di Muntari, che venne espulso dopo essere stato fischiato, sì, io avevo già fatto un pezzo con Tavecchio dove gli mostravo prima il cartellino giallo, poi il calzettino rosso, era più goliardico, anche se lui si arrabbiò tantissimo, la prese malissimo quella volta, e stavolta invece ha parlato con un altro mio collega, con Nicolò De Devitis, e che dirti, direi che forse è il caso per una volta in Italia, no, che qualcuno paghi per questo disastro. Luca, non andremo ai mondiali, non so se capisci la gravità. No, vabbè, ma non ne parliamo, una generazione di bambini orfani del mondiale a 10 anni, fra cui mio figlio, i ma gol rispetto del weekend. L'apertura per Nainggolan, arriva Florenzi con un treno, Nainggolan! Nainggolan! 2-0! E lui il leader della Roma in questo derby! Al volo! Romagnoli! Che gol! Napoli 2, Milan 1! Il controcross porta a rete della Sampdoria con Ferrari al 34esimo, la Samp probabilmente la chiude! Eh sì, sono i tre grandi eventi a cui si aggiunge l'Inter che con l'ineffabile Icardi vince sull'Atalanta una partita difficile, il Napoli in testa, la Roma insegue, la Samp compie l'impresa e questo incredibile Inter è lì che morde la coda. Che ne dici? Tu che tifi, Dino? Io tifo per il Catania, però stavo allo stadio, tipo per il Catania non cambierò mai, stavo allo stadio. Attento al telefono. Ah, senti? Sì, un po' meno. Scusami. Eri allo stadio e hai visto? Ero allo stadio, ho visto il gol del Ninja che ha giocato il migliore in campo secondo me. Io sono un grande appassionato di calcio, ero con Filippo Roma, un altro delle Iene, che invece è un grande romanista. Filippo Roma non può che essere la Roma. Ma in effetti, per il Cagliari o per la Roma? Io non ho ancora capito. No, io sono tifoso del Cagliari, ma quando ho iniziato a tifare il Cagliari era in B e quindi tifavo in ala Roma e mi sospendo il mio conflitto di interessi solo per Roma-Cagliari, in cui tifo Cagliari, ma ovviamente ho una grande simpatia per la Roma. Sono anche abbonato, capito? Vogliamo parlare della Samp del presidente Ferrero? No, un miracolo, però dobbiamo correre, dobbiamo andare a Pisa Pia, che fa ancora un altro appello. Stamattina mi ha chiamato il professor Prodi per dire di andare avanti nel tentativo di unire il centro-sinistra. Io voglio fare ancora un appello a MDP di ritornare ad essere e a stare insieme. Allora, è una telenovela fantastica questa della sinistra e adesso la puntata, l'ultima puntata è che Pisa Pia è tornato dalla parte di Renzi e fa l'appello a Bersani. Quanto ti appassiona questa storia, Dino? Mi ha appassionato molto per tanti anni perché vengo da quella cultura politica, devo dire che adesso mi intristisce più che appassionarmi. Tutto questo sembra un teatrino e mi pare che i risultati elettorali poi, come dire, raccontino che anche agli italiani non è che appassioni granché questo tiro in Mola. Esatto, come non posso, c'è dubbio. Però sarà importante sul voto. Tornare da dove sono andati via, cioè con quale criterio lo dovrebbero fare? Mi sembra anche impossibile. Delirante. E infatti Bersani dice niente da fare, ciao Neno, ci vediamo in Parlamento. Ma l'abbiamo letta la legge elettorale? Cioè qui non esiste un sistema maggioritario, ci si ritrova comunque in Parlamento, non vince nessuno con quella legge lì. Di Maio interviene con cattiveria sulla sinistra e dice si stanno scavando la fossa. Non possiamo ancora una volta tenere in ostaggio il paese perché Prodi, Fassino, D'Alema, Renzi e tutti gli altri si devono mettere d'accordo. Mentre loro litigano, noi oggi piantiamo 26.000 alberi in 67 comuni. Hanno suggerito di sotterrare i politici metaforicamente. Sì, no vabbè, politicamente e metaforicamente sì, ma sostanzialmente la fossa se la stanno scavando da soli. Sta funzionando secondo te Di Maio, di no? Sì, sta funzionando per il suo pubblico, forse c'era, io ho sempre pensato che Di Battista avrebbe, come dire, attratto anche quelli che sono molto scettici nei confronti del 5 Stelle, vedremo cosa sarà, il problema è che se non accettano mai alleanze per principio, mi pare che governare sarà difficile, come forse sai, apprezzo molte delle battaglie politiche dei 5 Stelle, non sono di quelli che li delegittimano a priori come fanno molti, però... Insomma, in Sicilia l'abbiamo visto, sono il primo partito ma non governano, forse bisogna anche capire che delle alleanze ogni tanto male non fanno per vincere le Ciao, elezioni. Ciao grande Dino, ti scrive Nico Operaio, probabilmente saprai chi è, e c'è un Crozza cult su Veltroni. Mamma mia. Veltroni per il PD è come il trench, non passa mai di moda. Si adatta alle mezze stagioni, va su tutto, proporzionale, maggioritario, coalizioni. Lo tieni in armadio 10 anni, poi lo tiri fuori, lo provi e dici «Cazzo, ma mi sta ancora bene!» Sì, forse c'è un po' sbiadito, ma tanto era già beige di suo. Ma come gli vengono? Alcune sono veramente profetiche. Di Battista però, querela Berlusconi sul tema cruciale del titolo di studio, è solo un lampo, solo un assaggio, proprio così, perché si sente molto male ma ci dà l'idea. Berlusconi ha detto: io non sono laureato, io ho quasi 2 lauree e un master in tutela internazionale dei diritti umani, quasi 2 lauree e un master. Ma la domanda è: ma gli altri politici chi ha mai chiesto se sono laureati? Questo mi stupisce, no? Adesso serve la laurea. Tante cose che si chiedono ai 5 Stelle non sono mai chieste agli altri politici. Ma a proposito di Veltroni, da Fazio aveva detto: vedrà. Neanche Veltroni è laureato, ha la licenza del Cine TV. Lo sappiamo bene. Ma a Fazio aveva detto: vedrà, io smetto di fare politica. Vedrà, poi diranno: sì, è furbetto, smetto. E poi è tornato da Fazio l'altro giorno a presentare il suo libro in cui si autoassolve, come ha detto giustamente Cristian Raimo. Leggete Raimo cosa dice su Veltroni. Bene, Pica, hanno vinto grazie a Casa Pound e gli Spada, la furia della candidata sconfitta a Ostia. Se voi vedete i voti all'idroscalo, noi abbiamo perso, loro hanno credo acquistato circa 1000 voti. L'idroscalo è Nuova Ostia, lì dove praticamente sono rappresentati soprattutto i voti di Casa Pound. Noi semplifichiamo spesso, ma in questo modo avrebbe il titolo Il voto degli Spada è andato alla Dipillo. Penso proprio di sì. Caro Dino, questa non ci può non toccare, perché Maria Concetta Riina, tanto per cambiare, inveisce contro quella categoria infame di vermi subdoli che sono i giornalisti, cioè noi. Scusatemi, il posto su questo è il rispetto della famiglia, è il dolore della famiglia, di una famiglia, di una persona. Condoglianze, vai, e questo è il modo di fare le condoglianze. Io ho dei figli minori, forse voi non l'avete capito. Non ha mai chiesto perdono, non si è mai pentito Totorina. Forse è... Ma come si permette? Qua c'è un cadavere. Questo è scandalismo. E siamo, come dire, lì. Dobbiamo fare domande scomode e anche momenti drammatici. Però ci tocca. Che dici? Ma dico che in questo caso forse ogni tanto ce le cerchiamo, nel senso che comunque... Non amo quel tipo di giornalismo che impone in certi momenti la propria presenza in maniera, cioè che limita la libertà degli altri. Non è il caso invece di quello che era successo a Ostia Lido, come forse saprai, io ho promosso, certo, quella manifestazione spontanea il giorno dopo, perché quello faceva il suo lavoro e faceva delle domande, tipo non rispondere alle domande durante un funerale, tutta quella gente eccetera. Capisco che come dire, cerchiamo ogni tanto di metterci noi dalla parte del torto, questo. Un buon discrimine, senti Sgarbi sul funerale di Rina, sempre sì, scapigliato. Si può non dare funerale a un essere umano? Probabilmente sì, quindi non avremo il funerale di Rina, e non credo che nessuno possa rimpiangerli, se non forse i suoi parenti. Però ci sarebbe stata una scommessa che riguarda più lo Stato che la Chiesa. Forse proprio il funerale poteva essere una cartina di tornasole, una prova, capacità o la possibilità di vedere se vanno tanti che sono succubi ancora di Rina e della mafia. Se non vanno, allora in quel caso la morte di Rina è soltanto una questione privata. Cosa pensi di questo? Perché è una provocazione molto interessante, per niente estrema. Ma sì, penso che paradossalmente più che le presenze ai funerali, quello che secondo me va valutato sono per esempio le reazioni sui social. Tante persone che hanno scritto che sei andato un grande uomo, poi penso che Rina, come dire, era un irriducibile ma aveva un potere limitato, già che era in carcere da tantissimi anni. Però il fatto che qualcuno lo ammiri ancora in Sicilia mi sembra il dato di fatto più grave, funerali o meno. E i funerali forse l'avrebbero portato alla luce. Ci sono tante cose da discutere. Il caso Virgilio è diventato un caso di cronaca che ha diviso l'Italia. Gli ululati fra Cruciani e la Martani, la casa del Grande Fratello, ma solo dopo le strade, caro Dino. Facciamo un'avvertenza sindacale: è immorale alzarsi a quest'ora. Mattino. I già svegli. Al mattino, caro Luca, tu la sveglia ci delizi. Ascoltandoti alla radio, sai che è l'ora che tu inizi. Per cominciare la settimana non mi piace la lussana, specialmente se al mattino poi le cambia il pannolino. Sono già sveglio perché mi arrabbio sempre di più con Renzi. Ma come? Ha schiacciato i calli a tutti. E ora che vede le conseguenze, con spudorata tracotanza, dice: scordiamoci, ho passato e andiamo avanti compatti. Sono già sveglio perché vado a guadagnarmi l'amichezza, come dicono a Milano, e pagare le tasse per chi non le paga. Popolo di ladri, pagate le tasse. Ciao. Mentre guido alle 6.30 medito e penso, l'inno di Mameli dovrebbe essere stato ufficializzato già dal 1948 ed il formaggiato Tavecchio, che fa la resistenza, non dovrebbe nemmeno essere stato rieletto. Si dovrebbe far brevettare questa grandissima invenzione italiana, che è questa super colla eccezionale che tiene legato alla sedia, alla poltrona, il culo di politici amministratori. L'ultimo è questo qui del calcio. La supercolla italiana, i pensieri alla guida, le proteste sui pannolini della Lussana è il grande racconto di questo programma, è il grande racconto delle mattine che sono il momento fatale di ognuno di noi. Dino, tu cosa fai la mattina alle 6 normalmente? Io dormo, Luca, perdonami, sarò banale, ma alle 6 di ma solito dormo. Il cliché del giornalista ozioso, ozioso. Ma hai mai avuto contatti con Brizzi in questa inchiesta, anche in diretti, mail, abboccamenti? Ci abbiamo provato in tutti i modi, devo dirti la verità, ma no, perché lui è un po' scomparso. Poi ci sono delle cose che sono state riportate male. Per esempio, Brizzi, come sai, era socio di Gianani, che è il marito di Marianna Madia, di Costanzo Saverio, il figlio di Maurizio Costanzo, e di Mieli, figlio di Paolo Mieli. Loro avevano una società in quattro e già dopo il primo o il secondo dei miei servizi, quindi ancora non era stato fatto ufficialmente il nome di Brizzi, queste quote, se vai a vedere, la Camera di Commercio sono state cedute. Quindi, come dire, credo che nel nostro ambiente si sapeva, intendo quello del cinema, si sapeva che qualcosa di strano ci fosse. Certo, immagino che nessuno immaginasse quelle cose, nemmeno io personalmente, ti dico la verità. Il Virgilio è diventato un caso nazionale, droghe, bombe carta, la preside disperata, e però tiene alta la bandiera e dice: qui si spacciano cose buone, intervistata da Massimo Gramellini. La droga, sì, c'è la droga. Io ho sentito anche dei genitori che hanno detto: vabbè, tutti si fanno le canne, che problema c'è farsi una canna? Anzi, gliele diamo noi, così stanno tranquilli. Ecco, qui non si tratta solo di canne. In altre scuole, in altre zone, in altri licei, in altri istituti superiori, sanno che qui ci sono cose buone. Che dici? È incredibile, eh? Guarda, mi ricordo che Nanni Moretti anni fa, in un dibattito con Gabriele Muccino, disse: i tre classici più importanti di Roma sono Virgilio, Visconti e Tasso. Il Mamiani non è fra questi tre. Quindi mi ha un po' colpito, io che non sono cresciuto a Roma ma a Catania, mi ha un po' colpito di tutta questa storia del Virgilio. Certo che dei genitori dicano che la roba però è buona, non lo so, mi pare un po' sì, troppo. Bisogna interrogarsi sui genitori qui più che sui figli. Forse sì, forse è il caso. Guerra vegana, Giuseppe Cruciani, autore di un pamphlet importante contro il veganesimo integrale, si scontra con Daniela Martani. Ma Cruciani ormai lo sappiamo che sta fuori di testa, insomma, non è credibile, ha l'empatia di un pulviscolo atmosferico. Senti, fuori di testa, lo dici a tua sorella? No, sei un fuori di testa, uno che si fa fotografare con tre teste di agnello. Lo dici a tua sorella, fuori di testa? Scarnificate, secondo me non è una persona che sta bene di cervello. Sì. Va bene, va bene. Quinta colonna sui fascio vegani. Allora, Cecilia vuole lasciare la casa del Grande Fratello, caro Dino. No, ma che? Io non voglio manco un euro, io voglio andarmi via, voglio andare a casa, voglio riprendere la mia vita o quella che sarà, voglio chiedere scusa, basta, mi ha dato un sacco di emozioni, ma basta. Un po' matta, eh? No, io ormai non ci sono più. Questa notizia. Sono anche questa. Ok. E insomma, lo trovi avvincente questo tormentone, questo fotoromanzo? Il Grande Fratello ti sembra il feuilleton dei tempi moderni o una palla? Beh, lì cito un altro grande, cioè Franco Battiato, quando diceva: per fortuna il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali, lui aggiungeva contribuzione elettorale. Minima immoralia, minima immoralia. La D'Urso contro la Trevisan. Pier Silvio, io domenica prossima me la prendo di vacanza e lascio la trasmissione, la lascio condurre alla Trevisan. Miriana, questa poltrona è tua, no, che saprai farlo molto meglio di me sicuramente. Barbara, non no, allora adesso a parte i giochi, gli scherzi, sicuramente lei avrà giocato, perché non posso pensare che giocato, immagini che parli con me di raccomandazioni, perché sennò veramente poi ce la vediamo io e lei in tribunale. La Trevisan, aveva osato dire, potrei condurre al posto della D'Urso, della Panicucci, ma in TV sono tutti raccomandati. Secondo me poi non è vero in questi casi, cioè la D'Urso si può dirle tutto, ma si è fatta la sua gavetta. Io sai che feci una fiction dove lei era attrice protagonista, l'ultima credo che fece. Quindi ne ha fatte tante nella vita, perché c'è un pubblico che la segue, come dire, è come a calcio, chi vince ha sempre ragione, no? Assolutamente sì. Allora ricordate i vostri messaggi per la navigazione, ne arrivano tanti, 349-238-6666. I vostri messaggi nella segreteria telefonica dei Giasvegli, quelli sono importanti, allo 02-30-22-4492. E poi ci sentiremo nell'ora dei cani e dei gatti per le telefonate. Grazie Dino, torna con noi, ti vogliamo grazie svegliare Luca di nuovo. Ciao! Mi metto a dormire, ciao!